Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Amos 3, 7. Poiché l'Eterno Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi profeti servi, sono stimolato ad iniziare le mie riflessioni con un'affermazione ardita, presuntuosa. Al momento opportuno, i cristiani sapranno quando Gesù ritorna per rapire la sua Chiesa. È vero che Gesù ha affermato, riferendosi al suo ritorno per regnare, quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure il Figlio ma il Padre, ma è altresì vero che Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Per cui se prendiamo sul serio l'affermazione di Gesù, egli non si è riferito all'anno o al mese, ma del giorno e dell'ora. Sottigliezze, cavilli? Al termine di questo studio ognuno farà le proprie valutazioni e forse, come me, attenderà di vedere il segreto che Dio ha rivelato ai suoi servi. Non tutti si avvicinano alle profezie nello stesso modo. Mio figlio, quando era fidanzato con colei che sarebbe diventata sua moglie, credeva in Cristo e al suo ritorno. Un giorno nel sentirmi parlare di profezie mi disse, «Papà, se Gesù dovesse tornare, prima che io mi sposi, gli terrei il muso per l'eternità». Un cristiano malato di tumore in fase terminale mi confidò, «Non vedo l'ora che Gesù ritorni per avere un corpo nuovo». Un ateo, nel sentire parlare del ritorno di Gesù, ruggì con arroganza, «Se Gesù torna, lo crocifiggo di nuovo». Si possono studiare le profezie per curiosità, Ezechiele 33:31, si possono evitare per incredulità, Geremia 36:23, si possono disprezzare per la loro difficoltà, 1 Tessalonicesi 5:20, si possono citare per mentire, Geremia 14:14, si possono studiare per conoscerle, Proverbi 25:2, se ne può parlare per incoraggiamento, 1 Tessalonicesi 4:18. E per questi due ultimi aspetti che affronto le profezie. Lo scopo del mio studio non è tanto quello di cercare di avere ragione, ma di conoscere come effettivamente stanno le cose, perché, per quanto abili possiamo essere nel distorcere la verità, non possiamo cambiare i piani di Dio. Le profezie appartengono solo a Dio, perché solo Lui conosce il futuro. O presentate la vostra causa, dice l'Eterno, esponete le vostre ragioni, dice il re di Giacobbe. Le espongano e ci annuncino ciò che accadrà, dichiarino quali erano le cose passate, perché le possiamo considerare e conoscerne il compimento. Oppure annunciateci ciò che avverrà. Annunciate ciò che avverrà nel futuro, e così sapremo che siete dei. Sì, fate del bene o del male, affinché rimaniamo sbigottiti nel vederlo insieme. Isaia 41:21-23. Vedi 44:7, 45:21. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non chi, e alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me, che annuncio la fine fin dal principio. E molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Isaia 46:9-10. Tutto ciò che appartiene al soprannaturale proviene da Dio o da Satana. La profezia, essendo una capacità non umana, deve essere solo così intesa. Se solo Dio conosce il futuro, allora Satana è un mentitore quando pretende anche lui di conoscerlo. Possiamo quindi affermare con certezza che tutte le predizioni dei chiromanti e indovini, eccetera, sono imposture, sono false, e tutti coloro che cercano di conoscere il futuro mediante il mondo dell'occultismo non fanno la volontà di Dio. Il divieto di Dio rivolto al suo popolo in Deuteronomio 18:9-22 è categorico. Quando entrerai nel paese che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio, la propria figlia, per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti, perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno. E a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Tu sarai integro davanti all'Eterno, il tuo Dio, poiché quelle nazioni che tu scaccerai hanno dato ascolto a indovini e a maghi. Ma, quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, non ha permesso che tu faccia così. L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me in mezzo a te fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto. In base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno, il tuo Dio, in Horeb, il giorno dell'assemblea, quando dicesti che io non oda più la voce dell'Eterno, il mio Dio, e non veda più questo gran fuoco, perché non muoia. E l'Eterno mi disse, ciò che hanno detto va bene, io susciterò per loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dice in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che ha la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire o che parla in nome di altri dei, quel profeta sarà messo a morte. E se tu dici in cuor tuo, come faremo a riconoscere la parola che l'Eterno non ha proferito? Quando il profeta parla in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella è una cosa che l'Eterno non ha proferito, l'ha detta il profeta per presunzione, non aver paura di lui. L'ordine di Dio è veramente un atto di misericordia. Riconoscendo che nell'uomo è radicato il desiderio di conoscere il futuro, Dio ha provveduto a saziare questa sua inclinazione nel modo giusto. Avrebbe mandato un profeta come Mosè che avrebbe predetto e confermato le profezie dei veri profeti. Nella persona di Gesù Cristo Dio ha annunciato e confermato le profezie come non ha mai fatto con nessuno. Gesù è dunque il profeta per eccellenza, e colui che non lo ascolta e si rivolge agli indovini è ritenuto da Dio colpevole. Le profezie provano l'attendibilità delle scritture. Dato che nessuno eccetto Dio può predire il futuro con certezza, dato che la Bibbia contiene numerose predizioni che si sono letteralmente e puntualmente adempiute, non si può più dubitare che egli provenga da Dio. Le profezie, quindi, sono una prova dell'attendibilità del cristianesimo. Scriveva giustamente Pascal, vedo più religioni contrarie tra loro, e perciò false, tranne una. Ognuna vuole essere creduta sulla sua propria autorità, e minaccia chi non le presti fede. Questo dunque non basta a farmi credere in loro, chiunque può dire questo, chiunque può proclamarsi profeta. Ma vedo che nella religione cristiana ci sono profezie, e questa non è cosa che possa fare chiunque. Se l'uomo non conosce il futuro, con quale autorità allora può un cristiano parlare del futuro? Perché i cristiani parlano del cielo e dell'inferno come se li avessero visti, si riferiscono al ritorno di Cristo, al millennio, come se fossero eventi cui hanno assistito? Perché il Dio dei cristiani non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti, Amos 3, 7. Infatti, come scrive l'Apostolo Pietro, sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo, 2 Pietro 1, 20-21. Se i cristiani possono parlare di profezie, non è per intelligenza, non è perché hanno una marcia in più rispetto agli altri, ma perché accettano le rivelazioni di Dio che sono scritte nella sua parola. Il cristiano è principalmente colui che non ha una sua logica, un suo modo di vedere, ma colui che vede le cose dal punto di vista di Dio, colui che ha la mente di Cristo, 1 Corinzi 2,16. Ecco alcuni esempi dove Dio non ha fatto nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi. Ad Abramo, chiamato l'amico di Dio, Giacomo 2,23, l'Eterno rivelò che i suoi discendenti avrebbero dimorato in un paese straniero per 400 anni, Genesi 15,13, 16, e questo più di 500 anni prima. A Mosè l'Eterno preannunziò, 300 anni prima, che un giorno il popolo di Israele avrebbe costituito dei re, Deuteronomio 17, 14, 20, e la cattività del popolo di Israele 800 anni prima di tale re. Quando Israele divenne una nazione ed elesse dei re, si divise in due. Il regno del nord, chiamato Regno di Israele, e il regno del sud, chiamato Regno di Giuda. L'Eterno profetizzò sia la fine del regno del nord, con la distruzione della città di Samaria, Michea 1, 6, che la cattività del regno del sud, Isaia 6:9-13, circa 700 anni prima che tali fatti si verificassero. L'Eterno rivelò a Geremia che la durata della cattività del popolo di Israele sarebbe stata di 70 anni. Genesi 25:1-14, e tramite un numero considerevole di profeti parlò pure del suo ritorno. Isaia 44:26-45:5-13, Geremia capitolo 33, e questo circa 2500 anni in anticipo. Tramite il profeta Daniele, l'Eterno rivelò che il popolo di Israele sarebbe stato sottomesso a quattro regni, Daniele capitolo 2:9, e annunciò avvenimenti relativi al XX secolo di cui un credente disse: «Al mattino io leggo i giornali e la Bibbia. Trovo la parola di Dio più attuale dei giornali». Questi esempi dimostrano che effettivamente Dio ha sempre rivelato ad Israele i suoi propositi eterni. Israele tornò nella terra promessa, Esdra 1:1-4, ma dopo circa 600 anni, nel 70 d.C., fu disperso fra tutte le nazioni come era stato profetizzato. Vi è tornato, secondo il piano di Dio, nel mese di maggio del 1948, perché molte altre profezie, come vedremo, devono adempiersi. Eccone una. Ma negli ultimi tempi avverrà che il monte della casa dell'Eterno sarà stabilito sulla sommità dei monti e sarà innalzato al di sopra dei colli, e ad esso affluiranno i popoli. Verranno molte nazioni e diranno: «Venite, saliamo al monte dell'Eterno e alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Egli sarà giudice fra molti popoli e farà da arbitro fra nazioni potenti e lontane. Con le loro spade forgeranno vomeri e con le loro lance falci. Una nazione non leverà più la spada contro l'altra e non saranno più addestrate per la guerra. Siederanno ciascuno sotto la propria vite e sotto il proprio fico, e più nessuno li spaventerà, perché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato. Mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome dell'Eterno, il nostro Dio per sempre», Michea 4:1-5. Per evitare fanatismi o estremismi, dobbiamo constatare che Dio si è rivelato non solo per far conoscere al suo popolo il futuro, ma anche per tante altre ragioni. Quando Dio creò Adamo ed Eva, dopo la loro disubbidienza, profetizzò al serpente che la progenie della donna gli avrebbe schiacciato il capo. Questa è da considerarsi la prima profezia in senso assoluto, Genesi 3:1/4. Questo si avverò dopo millenni con la morte di Cristo sulla croce, trionfando su di loro, Colossesi 2:1/4. Dio rivela ad Abramo la distruzione di Sodoma e Gomorra, Genesi 1:16-21. Prima di mandare il diluvio Dio ha avvertito Noè. Prima di distruggere Ninive, Dio ha mandato Giona. Prima di distruggere la casa di Acab, Dio lo ha avvertito tramite il profeta Elia. Prima di distruggere Gerusalemme, Dio ha mandato molti profeti, 2 Cronache 36:15-16. Prima della distruzione del Tempio, Gesù ha avvertito gli ebrei. Prima che la Chiesa sia rapita, Dio l'ha fatto sapere. L'Eterno Dio ha fatto sempre sapere in anticipo le cose che dovevano avvenire, e quindi con uno spirito di riconoscenza che ci avviciniamo alle Scritture per conoscere il futuro. Principi interpretativi. L'argomento delle profezie è certamente uno dei più difficili da trattare. Me ne resi conto poco dopo la mia conversione. Leggendo in 2 Tessalonicesi 2:4 pensavo che l'uomo che si sarebbe seduto sul Tempio di Dio fosse il Papa. In seguito compresi il mio errore. Così mi resi conto che, piuttosto di cercare precipitosamente la spiegazione delle cose future mediante dei versetti, occorrevano dei principi biblici di interpretazione. Vedremo quindi questi principi per poi passare al metodo che ho adottato per affrontare lo studio delle profezie. 1. Conservare il senso grammaticale. Le parole hanno un certo significato e l'interprete non può cambiare il senso a suo piacimento. Quando Gesù disse «Io edificherò la mia chiesa», Matteo 16:18, è evidente che essa non esisteva al tempo di questa sua dichiarazione. Quindi, i riferimenti profetici in relazione alla Chiesa devono essere collocati nel periodo giusto, cioè dalla Pentecoste fino al suo rapimento. Questo rispetto per la scrittura ci porta anche a non andare oltre a ciò che è scritto. Proprio per questo errore, anche i primi cristiani avevano interpretato male ciò che Gesù disse a Pietro di Giovanni: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Per questa affermazione si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Giovanni 21 ore 20 minuti e 23 secondi. Ma Gesù non aveva detto che Giovanni non sarebbe morto. 2. Scegliere l'interpretazione letterale. Il linguaggio della Bibbia è eterogeneo, cioè di diverso genere. Vi è quello storico, allegorico, morale. Qualunque sia il genere, dobbiamo attribuire al linguaggio della Bibbia il senso letterale. Quando parliamo di letterale, non si intende necessariamente reale, ma una letteralità nel simbolo. Prendiamo ad esempio alcune espressioni del Salmo 22. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato. Queste espressioni sono chiaramente simboliche e non reali. Nonostante ciò, il testo ha un contenuto letterale. Nessuno di noi può negare che intorno alla croce vi fossero uomini che si comportavano come tori o cani nei confronti di Gesù. Anche il linguaggio simbolico ha quindi un contenuto letterale perché illustrativo di un fatto reale. Dobbiamo perciò diffidare di una interpretazione spiritualizzata delle profezie, privandole di qualsiasi possibilità di concretezza storica. Il simbolo è rappresentativo di una realtà fisica, materiale, storica. Una chiara dimostrazione di tale tesi è data da Gesù quando, nel citare un passo profetico riferito a lui e ai suoi discepoli, disse: «Io percuoterò il pastore, e le pecore del gregge saranno disperse». È evidente che i discepoli non erano delle pecore e che Gesù non era colui che governa degli animali. Ma tutti gli elementi simbolici rappresentati nel pastore e nelle pecore sono presenti. Anche nel Salmo 114 sono evidenti gli elementi simbolici. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il suo santuario e Israele il suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano tornò indietro. I monti saltellarono come montoni, i colli come agnelli. Che avevi tu, o mare, per fuggire, e tu, o Giordano, per tornare indietro, e voi, o monti, per saltellare come montoni, e voi, o colli, come agnelli? Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe, che mutò la roccia in un lago, il macigno in una sorgente d'acqua. Un mare che fugge, un Giordano che torna indietro, una roccia e un macigno che diventano sorgenti d'acqua e un lago, possiamo accettarli, perché sono cose scritte nel libro dei Numeri, ma che i monti saltellino, forse facciamo fatica ad immaginarlo. Eppure, non vi è nulla di più facile se avviene un terremoto. Evidentemente, al passaggio del Giordano avvenne anche il terremoto. Attribuiamo quindi al linguaggio ricco di immaginazione la sua letteralità. Il senso letterale rimane quindi solido ed indiscutibile fondamento tramite cui è possibile comprendere ed interpretare rettamente tutti gli altri sensi o mezzi interpretativi della parola di Dio. 3. Distinguere a chi è rivolta la profezia. Anche questo principio di ermeneutica, cioè quella disciplina che serve per interpretare i documenti antichi, non deve essere trascurato. Le profezie di Dio vanno in varie direzioni, esse possono essere rivolte al popolo ebraico, agli altri popoli, alla Chiesa, ad una persona in particolare o altro. Fare di ogni erba un fascio ci porta alle conclusioni assurde, come accade a coloro che seguono la torre di guardia e si affermano di essere i testimoni di Dio basandosi su Isaia 43, 10, quando tale profezia è rivolta ai giudei. Per questo motivo, quando leggeremo il capitolo 24 di Matteo, non riferiremo simili profezie alla Chiesa, perché, come vedremo, esso è rivolto al popolo ebraico. Non dimentichiamo che Gesù risponde a delle domande tipicamente giudaiche. Dicci quando avverranno queste cose? cioè quando il Tempio sarà distrutto, quale sarà il segno della tua venuta, cioè il suo ritorno per regnare sul popolo ebreo, e della fine dell'età presente, non la fine del mondo, ma il periodo che precede il regno di Cristo. 4. Vi sono adempimenti diversi e successivi in uno stesso testo. Leggiamo in Luca 4:17-21. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Se leggiamo il brano parallelo di Isaia 61:1-2, troviamo l'annuncio di una benedizione, l'anno di grazia, e la predizione di un giudizio, il giorno di vendetta del nostro Dio. A prima vista, sembrano due avvenimenti immediatamente susseguenti, ma quando Gesù lesse questo passo, si fermò all'anno di grazia, perché la seconda profezia doveva ancora adempirsi. Così pure il testo citato da Gesù, Matteo 21:5, in occasione del suo ingresso a Gerusalemme prima di morire. Se leggiamo i versetti prima e quello dopo dicono tutt'altro. In merito alle profezie, in contesto a volte può essere deviante. 5. Le profezie contengono riferimenti multipli. Il libro di Daniele si riferisce più volte a un personaggio definito un re dall'aspetto feroce. Daniele 8:23. Il capo che commetterà le cose più abominevoli. Daniele 9:27. Questa visione profetica ha trovato il suo primo adempimento nelle nefandezze perpetrate da Antioco Epifane nel 167 a.C., Daniele 11:31, il quale fece sacrificare sull'altare del Tempio una scrofa. Le stesse espressioni, però, sono riferite anche ad un altro personaggio che deve ancora venire, cioè l'Anticristo. 2 Tessalonicesi 2:3-9. 4. I testi profetici hanno una nozione del tempo del tutto particolare. Spesso i profeti, parlando di avvenimenti futuri, usano il tempo presente, Isaia 9:5, o addirittura il tempo passato, Isaia 53. In alcune profezie si trovano fianco a fianco elementi riguardanti chiaramente epoche diverse e spesso distanti fra loro alcuni secoli. I profeti non potevano cogliere l'intervallo di tempo che separa fra loro gli avvenimenti futuri. Essi erano nella stessa situazione in cui siamo quando ammiriamo un cielo stellato. Noi vediamo le stelle come se fossero sullo stesso piano, mentre in realtà esse sono separate da miliardi e miliardi di anni luce. Inoltre, le profezie non sono sempre rivelate in ordine cronologico, come quella rivolta a Giacobbe in Genesi 46:4. Sembra dire che Giuseppe avrebbe chiuso gli occhi a Giacobbe dopo il suo ritorno nella terra promessa. Questa profezia ci porta a fare un'altra considerazione. 6. Nel linguaggio profetico le persone a cui è indirizzata la profezia possono personificare un popolo o altri. In Genesi 46:4 Dio sembra promettere a Giacobbe che lo avrebbe fatto ritornare in Palestina. Ma in quel momento Dio non stava parlando specificatamente di Giacobbe, ma della sua progenie, cosa che capì invece Giuseppe, Genesi 50:25. Proprio per questo, i primi cristiani capirono male le parole di Paolo quando egli affermò riguardo al ritorno del Signore, poi noi viventi, che saremo rimasti, 1 Tessalonicesi 4:17. In seguito Paolo dovette scrivere una seconda lettera perché essi pensavano che Gesù tornasse mentre Paolo era ancora in vita. Ma l'Apostolo in quel noi si identificava con la Chiesa. 2 Tessalonicesi 2:2. Notiamo questo modo di parlare anche in Gesù quando afferma davanti al Sommo Sacerdote che «Vedrete il Figlio dell'Uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nuvole del cielo». Matteo 26:64. Oppure, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, Matteo 00:15, e chiaro che queste affermazioni di Gesù non sono riferite ai suoi ascoltatori, ma a coloro che sarebbero stati presenti al momento dell'avverarsi della profezia. Profilo di storia biblica. Per comprendere le profezie è importante collocare i profeti nel contesto nel quale hanno operato. Per chi fosse a digiuno della storia del popolo di Israele traccio un breve riassunto e per facilitarne il ricordo ho diviso la storia del popolo di Dio in 7 periodi: i patriarchi, la conquista, la monarchia, la divisione, la deportazione, il ritorno e il periodo interbiblico. Alla chiamata di Dio. Abramo viaggia da Charan a Canaan, vivendo come un pastore nomade. I primi due figli di Abramo sono Ismaele e Isacco, e l'Eterno elegge Isacco. Isacco ha due gemelli, Esaù e Giacobbe, e l'Eterno sceglie Giacobbe. Giacobbe ha 4 mogli e 12 figli maschi, dai quali discendono le 12 tribù di Israele. I figli di Israele scendono in Egitto e diventano una nazione. 2. LACONQUISTA. Mosè fa uscire gli Israeliti dall'Egitto dopo 430 anni dalla loro permanenza, dopo la morte di Mosè. Giosuè conduce il popolo alla conquista della terra promessa. Le 12 tribù ricevono in assegnazione una parte del paese, ma la loro posizione è incerta e il sentimento di unità assai scarso. L'Eterno punisce il loro peccato riducendoli in schiavitù finché non si ravvedono e gridano a Lui per chiedere aiuto e liberazione. Allora vengono suscitati dei giudici per liberarle. L'ultimo dei giudici, Samuele, riveste nello stesso tempo l'ufficio di capo militare, di profeta e di sacerdote. 3. LAMONARCHIA. In obbedienza al comando dell'Eterno, Samuele unge Saul affinché diventi re. Ma Saul dimostra subito di non essere integro nelle vie di Dio, così Davide, un giovane pastore di Betlemme, viene chiamato dall'Eterno e unto re da Samuele affinché sostituisca l'indegno Saul. Davide si trova a reggere un regno diviso. In un primo tempo viene riconosciuto solamente dalla tribù di Giuda, ma poi il suo valore militare e la sua saggia politica conciliativa gli guadagnano anche la fedeltà delle tribù del nord. Davide sceglie Gerusalemme quale capitale politica e più tardi, quando vi viene costruito un santuario centrale, anche religiosa. Salomone succede a Davide ed ha il grande privilegio di costruire il Tempio. Il suo regno è magnifico, culmina con la costruzione sia del Tempio che del Palazzo Reale, con l'edificazione delle mura di Gerusalemme e lo sviluppo del commercio estero. Ma la grandiosità di tutte queste opere ha un prezzo, perché i grandi progetti di costruzione rendono necessari i lavori forzati e creano gravi malcontenti nel popolo. 4. LADIVISIONE. Alla morte di Salomon, nel 933 a.C., le tribù del nord esprimono chiaramente il loro malcontento e la loro insoddisfazione. Roboamo, figlio di Salomone, stoltamente consigliato, rifiuta di fare qualsiasi concessione al popolo, provocando in tal modo la rivolta delle tribù del nord sotto il comando di Geroboamo. Il regno di Israele è così diviso in due parti, durando appena 3 generazioni. La parte settentrionale, composta di 10 tribù, chiamata Israele o regno del nord, dura 200 anni e viene ridotta in schiavitù dagli Assiri nel 721 a.C. La parte meridionale, chiamata Giuda o regno del sud, sopravvisse all'altra di circa 100 anni e si conclude con la deportazione a Babilonia verso il 600 a.C. 5. LADEPORTAZIONE. Il popolo di Israele è lontano dalla sua terra, ma l'Eterno non lo ha abbandonato. Geremia aveva predetto la cattività, ma anche il ritorno del popolo nella terra promessa dopo 70 anni di deportazione. Ezechiele rivela la volontà di Dio agli esuli che sedevano piangendo presso i fiumi di Babilonia. Egli dichiara che l'ira e l'indignazione di Dio erano passate e che una parte degli esuli ritornerà con uno spirito rinnovato. Daniele rivela da parte di Dio che Israele sarà dominato da 4 regni prima che si stabilisca il regno di Dio sulla terra. Sei, Ilritorno, Ciro, il re persiano e lo strumento inconsulo. Poco tempo dopo la caduta di Babilonia, la politica di Ciro permette il rimpatrio dei popoli deportati. In accordo con tale atteggiamento viene emesso un decreto nel 536 a.C., con il quale veniva concesso ai giudei di ritornare nel loro paese. Uno scenario di desolazione li attendeva al loro ritorno, ma gli esuli stanchi e scoraggiati vengono vigorosamente stimolati dai profeti Aggeo e Zaccaria, che esortano il popolo di ricostruire il secondo tempio. Più tardi, sotto la guida di Esdra e di Neemia, si determina una felice collaborazione fra mondo religioso e Stato, per cui il Tempio, le mura e la città vengono costruiti. Così, nei giorni che seguono l'esilio, profeti, sacerdoti e uomini di Stato si protendono in concorde sforzo per mantenere la purezza morale e cerimoniale. I matrimoni misti vengono sciolti, l'usura e la bestemmia vengono condannate. La necessità dell'osservanza del sabato viene messa in evidenza. Israele riprende vita come entità nazionale. La storia biblica si chiude 400 anni prima della venuta del Messia. Gesù Cristo. 7. PERIODIONTERBIBLICO. Durante i 400 anni che intercorrono tra Malachia e la venuta di Cristo, si svolgono in Palestina degli avvenimenti che determineranno lo scenario che troviamo nel Nuovo Testamento. Al termine dell'Antico Testamento la Giudea era una provincia persiana, mentre più tardi passa sotto la dominazione greca. In seguito vi è un periodo di indipendenza con la rivolta dei Maccabei. Poi, nell'anno 63 a.C., la Palestina venne conquistata dai Romani al tempo di Pompeo. Sotto all'impero di Roma nasce Gesù Cristo. Il periodo che interessa al nostro studio è quello della deportazione. Quando il popolo di Israele si divide dopo la morte di Salomone, l'Eterno manda in continuazione dei profeti per invitarli a seguire la sua volontà con la minaccia, ove disubbidiscono, di cacciarli dalla loro terra. Per il nostro studio è sufficiente prendere in esame le profezie di Geremia e Daniele. Geremia avrà il compito di avvertire il popolo che sarebbe stato soggetto al re di Babilonia per 70 anni, e ciò avvenne dal 606 al 536 Avrotermantoci. A Daniele l'Eterno rivela che per il popolo di Israele egli aveva fissato 490 anni, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Simile descrizione è applicabile al regno millenario di Cristo. Vogliamo dare un'occhiata alle profezie di Daniele. Il profetismo biblico. Il profetismo ha accompagnato tutto il cammino storico di Israele fin dalla sua origine, come nella persona di Abramo definito dall'Eterno stesso in Genesi 20.7, il profeta. Questo termine va circoscritto circa all'opera di mediazione nei confronti dei suoi discendenti, ai quali trasmette una certa conoscenza della volontà di Dio. In questa prospettiva anche Mosè viene definito un profeta. Ditti 18.18, forse il massimo profeta dopo il Messia. Il periodo profetico vero e proprio può essere collocato dopo la morte di Salomone fino a circa 300 anni prima della nascita di Cristo. Questo aspetto divide la storia ebraica in due. Dalla Genesi a Salomone vi è una continua crescita della nazione ebraica, da Salomone in poi una discesa morale e politica, che termina con la venuta del Messia e la distruzione della città di Gerusalemme. I primi profeti, oltre ad annunciare l'amore dell'Eterno, la sua ira e i suoi giudizi, sono stati Amos, Osea, Michea, Abacuc e altri. Questi profeti si limitarono ad annunciare l'invasione nel territorio di Israele da parte dei popoli vicini come i Siri e Moabiti, ma solo al tempo del re Ezechia abbiamo la profezia da parte del profeta Isaia dell'invasione di un popolo nuovo. Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola dell'Eterno degli eserciti. Ecco, verranno giorni in cui tutto ciò che si trova nel tuo palazzo e ciò che i tuoi padri hanno accumulato fino a oggi sarà trasportato a Babilonia. Non vi resterà nulla, dice l'Eterno. Prenderanno inoltre i figli che saranno usciti da te e che tu avrai generato, e ne faranno degli eunuchi nel palazzo del re di Babilonia. Isaia 39.57. Isaia annuncia l'invasione da parte del popolo di Babilonia, un paese lontano, 39.3, e sconosciuto. Ma, ancora più sorprendente, Isaia profetizza 150 anni prima che l'Eterno avrebbe suscitato un servo per ristabilire il suo popolo chiamandolo per nome, Ciro. Isaia 44.28, 45.113. Per poter comprendere il periodo storico, occorre fare uno schema del periodo in cui regnarono i re del regno di Giuda. Achaz, Ezechia, Manasse, Amon, Giosia, Joachaz, Joachim, Joachin, Sedechia. Regnò dal 735 al 715. Regnò dal 714 al 698. Regnò dal 697 al 642. Regnò dal 641 al 640. Regnò dal 639 al 640. Regnò dal 697 al 597. Al tempo di Giosia iniziò Geremia 25.1-1-2. Ma poiché vi erano dei falsi profeti che profetizzavano cose vane prima ancora della deportazione, Geremia profetizzò addirittura il ritorno di Israele nel suo territorio. Geremia 29.8-15. Tutto avvenne secondo il volere di Dio. La città di Gerusalemme fu presa da parte dei babilonesi, i quali deportarono alcuni giovani fanciulli nel palazzo del re di Babilonia, Nabucodonosor. Troviamo scritto questo nel libro di Daniele 1.17. Le settimane d'anni del profeta Daniele. E, stato detto che la matematica non è un'opinione. Proprio per questo, affrontare la profezia, tenendo conto i periodi di tempo stabiliti da Dio, è la regola più sicura per non sbagliare. Se si tengono presenti i giorni, i mesi e gli anni che Dio ha stabilito nella sua sovranità, si eviteranno errori molto comuni a chi si accosta alle profezie. Mentre Geremia visse fra il suo popolo, il profeta Daniele visse alla corte di Babilonia. Il quarto anno del regno di Joachim, ancora adolescente, Daniele fu deportato via con altri prigionieri da Nebuchadnezzar, dopo il primo assedio di Gerusalemme, cioè nel 606 a.C. In terra straniera l'Eterno rivelò a Daniele che il suo popolo sarebbe stato sottomesso a quattro regni. Daniele 2, 1-45. Leggiamo questo nel libro di Daniele al capitolo 2. Nel secondo anno del regno di Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar ebbe dei sogni. Il suo spirito rimase turbato e il sonno lo lasciò. Il re allora diede ordini di chiamare i maghi, gli astrologi, gli stregoni e i caldei perché raccontassero al re i suoi sogni. Questi vennero e si presentarono al re. Il re disse loro: ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato finché riuscirò a conoscere il sogno. Allora i caldei risposero al re in aramaico: ora possa tu vivere per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re rispose e disse ai caldei: la mia decisione è presa. Se non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione sarete tagliati a pezzi e le vostre case saranno ridotte in letamai. Se invece mi indicherete il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Indicatemi dunque il sogno e la sua interpretazione. Essi risposero una seconda volta e dissero: racconti il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. Il re allora rispose e disse: mi rendo chiaramente conto che voi intendete guadagnare tempo, perché vedete che la mia decisione è presa. Se non mi fate conoscere il sogno, c'è un'unica sentenza per voi. Vi siete messi d'accordo per dire davanti a me parole bugiarde e perverse, nella speranza che i tempi mutino. Perciò raccontatemi il sogno, e io saprò che siete in grado di darmene anche l'interpretazione. I caldei risposero davanti al re e dissero: non quark, è alcun uomo sulla terra che possa far sapere ciò che il re domanda. Infatti nessun re, signore o sovrano ha mai chiesto una cosa simile ad alcun mago, astrologo o caldeo. La cosa che il re Domanda è troppo difficile e non c'è nessuno che la possa far sapere al re se non gli dèi la cui dimora non è fra i mortali. A questo il re si adirò, montò in collera e ordinò di sterminare tutti i savi di Babilonia. Così fu promulgato il decreto in base al quale i savi dovevano essere uccisi. E cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse con parole prudenti e sagge ad Arioch, capitano delle guardie del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Arioch, capitano del re, «Perché mai un decreto così duro da parte del re?» Allora Arioch fece sapere la cosa a Daniele. Così Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo, perché potesse far conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e fece sapere la cosa ai suoi compagni, Hananiah, Mishael e Azaria, perché implorassero misericordia dal Dio del cielo riguardo a questo segreto, perché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna. Così Daniele benedisse il Dio del cielo. Daniele prese a dire: «Sia benedetto il nome di Dio per sempre, eternamente, perché a Lui appartengono la sapienza e la forza. Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce dimora con Lui. O Dio dei miei padri, ti ringrazio e ti lodo, perché mi hai dato sapienza e forza, e mi hai fatto conoscere ciò che ti abbiamo chiesto, facendoci conoscere la cosa richiesta dal re». Perciò Daniele entrò da Arioch, a cui il re aveva affidato l'incarico di far perire i savi di Babilonia. Andò e gli disse così: «Non far perire i savi di Babilonia, conducimi davanti al re, e darò al re l'interpretazione». Allora Arioch condusse in fretta Daniele davanti al re, e gli parlò così: «Ho trovato un uomo fra i giudei in cattività, che farà conoscere al re l'interpretazione». Il re prese a dire a Daniele, che si chiamava Belshazzar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose in presenza del re e disse: «Il segreto di cui il re ha chiesto l'interpretazione non può essere spiegato al re, né da saggi, né da astrologi, né da maghi, né da maghi, né da indovini, ma Mekech è un Dio nel cielo che rivela i segreti, ed egli ha fatto conoscere al re Nebuchadnezzar ciò che avverrà negli ultimi giorni. Questo è stato il tuo sogno e le visioni della tua mente sul tuo letto. Ora, i pensieri che ti sono venuti sul tuo letto riguardano ciò che deve avvenire d'ora in poi, e colui che rivela i segreti ti ha fatto conoscere ciò che avverrà. Ma quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché io abbia maggiore sapienza di tutti gli altri viventi, ma perché l'interpretazione sia fatta conoscere al re, e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Tu stai guardando, o re, ed ecco una grande immagine. Questa enorme immagine, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con un aspetto terribile. La testa di questa immagine era d'oro, fino, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre stavi guardando, una pietra si staccò, ma non per mano d'uomo, e colpì l'immagine sui suoi piedi di ferro e d'argilla, e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via, e di essi non si trovò più alcuna traccia. Ma la pietra che aveva colpito l'immagine diventò un grande monte, che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione davanti al re. Tu, o re, sei il re dei re, perché il Dio del cielo ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque dimorano i figli degli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. Tu sei quella testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo, poi un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra. Il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa. Come il ferro che frantuma quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. Come tu hai visto che i piedi e le dita erano in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso, tuttavia in esso ci sarà la durezza del ferro, perché tu hai visto il ferro mescolato con argilla molle. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Come hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, essi si mescoleranno per seme umano, ma non si uniranno l'uno all'altro, esattamente come il ferro non si amalgama con l'argilla. Al tempo di questi re il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato a un altro popolo, ma frantumerà e annienterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Esattamente come hai visto la pietra staccarsi dal monte, non per mano d'uomo, e frantumare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il grande Dio ha fatto conoscere al re ciò che deve avvenire d'ora in poi, il sogno è veritiero, e la sua interpretazione è sicura. I quattro regni a cui fa riferimento Daniele sono babilonese, medio-persiano, greco, romano. Sotto la dominazione romana sarebbe sorto un altro regno che non avrebbe mai avuto fine, e questo regno non può essere altro che la Chiesa, il periodo cioè nel quale stiamo vivendo ora nel XXI secolo. Quando nel 606 Nebuchadnezzar deportò dei giudei a Babilonia, il cui esilio durò 70 anni, fra i deportati si trovò Daniele. Alla fine dei 70 anni, nel primo anno del re Dario, cioè nel 536, Dario era incaricato da Ciro a governare su Babilonia. In Daniele 6.28 leggiamo: «Così questo Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il persiano, Daniele rivolge una preghiera all'Eterno». Leggiamo il capitolo 9 che un angelo si avvicinò a Daniele e gli disse: «All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione, e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione, che è l'Eterno aveva fissato per il popolo di Israele 70 settimane dopo di che le profezie per il popolo di Israele si sarebbero adempiute e sarebbe iniziato un periodo glorioso, il regno millenniale. L'espressione 70 settimane in ebraico è Shabua, che corrisponde esattamente alla parola italiana heptade. Questa parola deriva da hepta, cioè il primo elemento di parole composte derivate dal greco, che significa sette. Di conseguenza la parola Shabua designa una composizione di sette, o unità di sette, cioè una eptade di anni 70 per 7, uguale 490 anni. Il popolo di Dio sarebbe dunque stato soggetto agli altri regni per 490 anni. Per gli ebrei contare in settimane di anni non era affatto cosa nuova. Nella legge di Mosè, l'Eterno Dio ordinò al popolo di Israele di contare con un ciclo di settimane d'anni. Ogni 7 anni la terra doveva essere lasciata incolta, abbandonata, e ogni 7 volte 7 anni doveva essere celebrata la festa del Giubileo, Levitico 25, 1 a 7 e 8 a 13. La profezia di Daniele è quindi divisa in tre periodi. Dal momento in cui uscirà l'ordine di restaurare la città vi saranno 7 settimane, 49 anni. Il periodo occorso per la ricostruzione di Gerusalemme, 62 settimane, 434 anni. Un unto sarà soppresso, cioè Gesù. Una settimana, 7 anni. L'invasore stabilirà un patto che annullerà a metà settimana, l'Anticristo. Quindi, dal momento in cui sarà uscito l'ordine di restaurare la città, al momento in cui deve apparire un unto, trascorrono 69 settimane. In Neemia 2, 1 a 8, viene descritta esattamente l'emanazione di questo decreto. Nel mese di Nisan, l'anno 20° del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste, anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore». Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» Il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: «Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla». Il re mi disse: «La regina stava seduta al suo fianco. Quanto durerà il viaggio e quando ritornerai?» Così piacque al re di lasciarmi andare e io gli indicai un termine di tempo. Poi dissi al re: «Se così piace al re, vi si diano delle lettere per i governatori della regione oltre il fiume, affinché mi diano il lasciapassare finché sia giunto in Giuda, e una lettera per Asaf, sorvegliante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessa al tempio, per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare». Il re mi diede le lettere, perché la mano benefica del mio Dio era su di me. La data del decreto di ricostruzione delle mura è dunque nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse. Il re Artaserse, il longimano, regnò dal 465 al 423 avanti Cristo. L'anno 21° del suo regno corrisponde all'anno 445 avanti Cristo. Il mese di Nisan cade nei mesi di marzo-aprile. Per gli ebrei, dunque, il passo di Daniele aveva il seguente significato: dalla data del decreto di ricostruire Gerusalemme, marzo-aprile 445 avanti Cristo, dovevano essere contati 483 anni e quindi apparire il capo, l'unto, il Messia. Ciò è veramente avvenuto? Leggiamo ora nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 3, 1 a 2. Or nell'anno 15° del regno di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, suo fratello Filippo tetrarca dell'Iturea e della regione della Traconitide, e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. L'imperatore Tiberio regnò dal 14 al 37 d.C., quindi il 15° anno del suo regno fu il 29 d.C. L'attività pubblica di Gesù durò 3 anni, perché è scritto che partecipò a 3 feste di Pasqua, Giovanni 2, 13. Se in Luca 13, 7, in una parabola, si riferisce esattamente a 3 anni. Giovanni 12, 1 afferma che Gesù andò a Betania 6 giorni prima dell'ultima Pasqua, cioè il 32 d.C. Il versetto 12 e seguenti riportano l'ingresso di Gesù a Gerusalemme il giorno seguente, durante il quale fu festeggiato come re. Nel mese di Nisan, quindi, Gesù fu soppresso in croce dopo 69 settimane, dal 445 AC al 32 d.C. L'anno profetico della Bibbia dura 360 giorni, Apocalisse 11, 3, 12, 2. Se un anno biblico è quindi di 360 giorni, le 69 settimane corrispondono a 173.880 giorni, 69 per 7 per 360. Se ora si considera che per la storia, Al contrario dell'astronomia, non vi è un anno zero, fra l'uno prima e l'uno dopo Cristo. Possiamo constatare che fra marzo-aprile 445 a.C. e marzo-aprile 32 d.C. vi sono esattamente 173.880 giorni. L'orologio di Dio non è mai in ritardo. È interessante notare che alcuni scettici hanno dichiarato che il libro di Daniele sarebbe falso, perché è troppo esatto, ma la profezia di Daniele è solo una delle centinaia più di 300 che si sono avverate con una precisione ancora più sorprendente. Nessuna religione all'infuori del cristianesimo biblico può vantare una simile prova. Abbiamo constatato che l'orologio di Dio è preciso e che la 69esima settimana si è avverata. E la 70 gradi settimana? Gli ultimi 7 anni si sono adempiuti o devono ancora adempiersi? Per ciò che riguarda Israele, l'orologio di Dio si è fermato alla 69esima settimana. Paolo scrisse ai Romani: «Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto. Israele sarà salvato». Romani 11 e 25. Paolo riconosceva di vivere in un momento nel quale Israele, come popolo, si trovava in un periodo particolare, indurimento parziale, in attesa che si manifestasse la pienezza dei gentili. Dopodiché, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe, e questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Romani 11 e 26. Dunque, Paolo sapeva quali eventi si preparavano per Israele. Secondo il nostro studio, rimane dunque ancora una settimana profetica per il popolo di Israele. Del resto anche attestata da Gesù quando disse: «Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda». Matteo 24.25. Per Gesù l'abominazione della desolazione doveva ancora venire e questo dato sarà molto importante per il nostro studio. Se l'abominazione della desolazione fosse avvenuta dopo la sua morte, e cioè dopo 3 anni e mezzo, come dice il profeta Daniele, Israele non sarebbe stato distrutto nel 70 d.C. da Tito. Come sarà quest'ultima settimana di Daniele? La studieremo dopo aver stabilito quale metodo usare per il nostro studio. 1. Le profezie si studiano anche per essere più santi. 2. Solo il Dio trino dei cristiani conosce il futuro. 3. I cristiani parlano del futuro perché credono nella parola di Dio rivelata. 4. Dio rivela anticipatamente ai profeti ciò che fa, come è stato per Abramo, per Mosè, Isaia, Geremia e Daniele. 5. A Isaia l'Eterno ha rivelato che il popolo babilonese avrebbe deportato gli ebrei lontano dalla loro terra e che Ciro avrebbe riportato gli esuli. Isaia 44.2, 8 a 45.1-13. 6. Geremia profetizza i 70 anni di deportazione, cap 25, e il suo ritorno, capitolo 29. 7. Daniele profetizza il dominio di 4 regni su Israele, capitolo 2. Babilonesi, persiani, greci, romani. 8. Daniele profetizza 70 settimane, 490 anni nel 536, e poi sarebbe iniziato un periodo 9. Le 70 settimane, 490, divise in 3 periodi. 7 settimane, 49 anni. Il periodo occorso per la ricostruzione di Gerusalemme. 62 settimane, 434 anni. Un unto sarà soppresso, cioè Gesù. A questo punto sono 1 settimana, 7 anni. L'anticristo stabilirà un patto che annullerà a metà settimana e la domanda da porsi è: con la morte di Gesù sono passati 490 anni, oppure deve ancora avverarsi 1 settimana, cioè 7 anni? Gesù ha parlato dell'abominazione della desolazione come qualcosa da avverarsi. Matteo 24.25. E dopo 7 anni non è iniziato un periodo nuovo e stupendo per Israele. Anzi, nel 70 d.C. il romano Tito rade al suolo Gerusalemme. ILMETODO. Una volta stabilita l'ermeneutica escatologica, cioè la regola che permette di studiare le profezie, occorre trovare un metodo di interpretazione che limiti al massimo la possibilità di fare errori. Una chiave di interpretazione è quella delle dispensazioni. Esse sono state definite quali periodi della storia della rivelazione, durante i quali l'uomo è stato messo alla prova sulla base della sua ubbidienza ad una specifica manifestazione della volontà di Dio e della sua grazia. Ma a mio avviso, tale chiave è molto complessa e induce a interpretazioni soggettive. Per questa ragione mi sono messo in ascolto aspettando delle convinzioni che fossero sorte dalla lettura sistematica della parola di Dio. Così, col passare del tempo, mi sono reso conto che il metodo più sicuro è quello di indagare la realtà che è attorno a noi, più che fidarci delle nostre valutazioni. Prendiamo come esempio la scienza. È stato detto che i nostri cinque sensi possono essere chiamati le finestre dell'anima. Mediante essi noi possiamo comunicare con il mondo fisico che ci circonda. Essi però sono limitati. Noi non percepiamo la luce nella sua interezza come i raggi infrarossi. Noi non udiamo tutti i suoni del creato come gli ultrasuoni emessi e ascoltati da alcuni animali. Per questa nostra limitatezza noi arriviamo a fare affermazioni sbagliate. Infatti, quando ero giovane si diceva «stai muto come un pesce», mentre oggi, usando appositi strumenti, abbiamo scoperto che i pesci comunicano fra di loro, cioè parlano. Solo quando l'uomo si è reso conto che i suoi sensi sono limitati e imprecisi, ha progredito nella scienza. Anzi, tale consapevolezza è il vero fondamento della scienza. Prima dell'era scientifica, l'uomo non aveva la vera concezione di un sistema universale regolato da leggi rigorose. Egli fabbricava teorie e principi sulle magre e scarse cognizioni che ricavava dai suoi sensi limitati e imprecisi. L'era scientifica nacque quando l'uomo smise di confidare sui propri sensi ed elaborò degli strumenti per superare i suoi limiti. Due di questi sono il telescopio e il microscopio. Proprio perché noi uomini possiamo essere ingannati dal nostro ragionare, ho cominciato a porre più fiducia su quello che afferma la Bibbia riguardo agli astri e il fattore tempo, cioè le date, e i periodi di cui parla la Bibbia. Quindi, le date e gli astri possono essere due strumenti per interpretare rettamente le profezie ed avere cognizioni precise. ILLINGUAGGIODEGLIASTRI. Poi Dio disse: vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno dalla notte, e siano per segni e per stagioni e per giorni e per anni, e servano da luminari nel firmamento dei cieli per far luce sulla terra. E così fu. Genesi 1:14. Quando l'Eterno restaurò la terra, nel disporre i luminari, stelle, sole, luna, disse che essi sarebbero stati dei segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni. L'Eterno creò i corpi celesti non solo per illuminare le tenebre, ma anche come mezzi di rivelazione, come strumenti utili per comprendere le stagioni, il tempo e gli anni. Gesù rimproverò i sadducei e i farisei perché sapevano riconoscere il tempo e le stagioni, ma non sapevano discernere il tempo della sua venuta. Matt 16:2-3. Alcuni studiosi affermano che, in ebraico, la parola segni è ototh, plurale di oti, radice, che significa avvenire. La parola stagioni o epoche non è tanto riferita al periodo che costituisce la quarta parte dell'anno, ma piuttosto il ciclo dei tempi, i tempi designati. Quindi gli astri hanno un'altra missione. Sono mezzi che Dio usa per rivelare il compiersi delle profezie. Non è un'opinione certamente originale, perché anche i magi al tempo di Gesù furono guidati da una stella, dicendo: Dov è il re dei giudei che è nato, poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Matteo 2:2. Qui non si tratta di fare dell'astrologia, cioè quella scienza che presume di conoscere i vari influssi che gli astri avrebbero sul mondo terreno, onde su tale base prevedere avvenimenti futuri. La mia ricerca non è dettata neppure dall'astrolatria, cioè il culto o adorazione degli astri, ma motivata dalla certezza che gli astri hanno qualcosa da dire. Dobbiamo attribuire al creato il suo giusto ruolo, perché esso è partecipe degli avvenimenti della vita. Basti pensare al momento della crocifissione di Gesù. Dopo la sua morte si fece tenebre su tutto il paese, per la durata di 3 ore. Mentre gli uomini non erano coscienti di quello che stava per succedere, il creato seguiva il dramma del creatore. Consideriamo quindi quello che Gesù disse nel suo discorso profetico in Luca 21 e 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Il creato è quindi un valido strumento per valutare e capire le profezie. Nel fare questo studio sono rimasto sorpreso di non aver trovato fino ad ora nessun studioso di profezie che abbia seguito questo metodo. Molto probabilmente perché gli astri sono di dominio pubblico e sono sotto i nostri occhi ogni giorno. Lo dimostra anche il fatto che l'uomo ha puntato il suo occhio scrutatore nell'universo solo dopo alcuni secoli che aveva inventato il telescopio. Sono poi rimasto veramente stupito quando ho considerato che Gesù ha dimostrato l'amore di Dio nell'osservare il sole e la pioggia, cose che vediamo giornalmente. Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Nessuno, prima di lui, aveva fatto questo accostamento così banale ma sfuggente per il suo avverarsi quotidiano. Forse è giunto il momento di dare molta più importanza agli astri di quanto si sia fatto fino ad ora, perché in essi abbiamo una fonte profetica inesauribile e pieferma delle nostre interpretazioni sugli avvenimenti della vita. Vediamo quindi come i segni, cioè l'annuncio dei luminari, siano indispensabili per comprendere le profezie. Leggiamo in Zaccaria 14, 6 a 7. O, in quel giorno, avverrà che non vi sarà più luce, gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico, che è conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. Questa profezia prevede che un giorno chiamato unico, gli astri non brilleranno come al solito. Vi sarà buio che verrà interrotto verso sera da una luce perché ritornerà Cristo tra le due sere. Lev 23:5, cioè alle 18. Tutti vedranno Gesù che ritornerà come un fulmine, Zac 9:14, suonando la tromba. Confermato anche da Paolo, 1 Tes 4.16, da notare il verbo ritornerà, anche in Zaccaria 8, 3. Così dice l'Eterno, io ritornerò a Sion e dimorerò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata la città della fedeltà e il monte dell'Eterno degli eserciti, il monte della S.A. Nuovo Testamento, Zac 8, 22-23. In quel periodo, cioè 1000 anni, Gerusalemme sarà sicura anche senza mura. Zac 2, 3-4. 14 e 11. Sarà la capitale del mondo. Zac 2, 11-12. E Gesù, re della terra. Zac 14-9. Zaccaria non fu l'unico profeta a predire questo sconvolgimento degli astri. Anche Gioele ne accenna per due volte. Gioele 2 e 10 a 3 e 14. O davanti a loro trema la terra, i cieli tremano, il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. O moltitudini, moltitudini, nella valle della decisione, poiché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscurano e le stelle ritirano il loro splendore. Il sole e la luna si oscureranno nel giorno del Signore. Così pure il profeta Isaia 13 e 10. O poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà più la sua luce. Le luci del cielo si spengono. Il sole si oscurerà fin dal mattino. Ezechiele, nel profetizzare una condanna contro l'Egitto, conferma la profezia di Isaia, Ezechiele 32:7. Quando ti estinguerò, coprirò i cieli e ne oscurerò le stelle. Coprirò il sole con una nuvola e la luna non darà più la sua luce. Il profeta Amos fa coro, 8, 9. O in quel giorno avverrà, dice il Signore l'Eterno, che io farò tramontare il sole a mezzogiorno, e oscurerò la terra in pieno giorno. Comprendiamo l'importanza di tale profezia dal fatto che è ripetuta dai più profeti. Gli astri, il sole, la luna, subiranno dei fenomeni astronomici particolari, fenomeni che non hanno avuto uguale in tutta la storia dell'umanità. Se qualcuno fosse scettico su questi fenomeni, pensi a ciò che è avvenuto al tempo di Giosuè. Circa 3500 anni fa, il sole ha brillato sempre sullo stesso punto per quasi un giorno intero. Giosuè 10 e 12. Inoltre, 700 anni prima di Cristo, il profeta Isaia invocò l'Eterno, che fece retrocedere l'ombra di 10 gradini che essa aveva già percorso sulla scala di Achatz. 2 Re 20 e 11. Questi fenomeni inspiegabili per noi oggi non sono meno credibili di quelli che abbiamo considerato. Una precisazione sui gradini di Achatz, 2 Re 20, 1 11 e Isaia 38, 1 a 6. Questa traduzione porta a pensare che i gradini fossero quegli elementi che costituiscono una scala, ma invece si trattava di una meridiana, cioè di un orologio solare, le cui linee graduate, che corrispondevano a mezz'ora, venivano chiamate gradini. In effetti, se si considerano altre traduzioni, ogni problematica si sfuma. Così traduce la Bibbia di Fulvio Nardoni: allora il profeta Isaia invocò il Signore, ed egli fece tornare l'ombra 10 gradi indietro sulla meridiana di Achatz. Stessa versione la troviamo nella Bibbia tradotta sotto la direzione di Bonaventura Mariani e quella di Salvatore Garofano. Da notare che il fenomeno del sole che retrocede sarebbe stato osservato anche a Babilonia, 2 CR 32-31. Da tenere presente che questi fenomeni avverranno prima che venga il terribile giorno dell'Eterno. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Gioele 2:31. Come uomini del XXI secolo dobbiamo aspettarci eventi catastrofici, eventi tra l'altro prevedibili con la tecnologia di oggi. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti, gli uomini verranno meno dalla paura e dall'Antico Testamento tesa delle cose che si abbatteranno sul mondo perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Una cosa che succederà sarà: Osea 4, 3, i pesci del mare saranno eliminati. Zaccaria 1, 3, farò scomparire uomini e bestie, farò scomparire gli uccelli del cielo e i pesci del mare, le cause di peccato assieme agli empi, esterminerò l'uomo dalla faccia. Simili affermazioni erano inconcepibili solo qualche anno fa, alla luce dell'inquinamento alla quale la Terra è soggetta, ora tutto è possibile. Pensiamo al buco nell'ozono e alle conseguenze nefaste. L'Eterno chiese a Giobbe: conosci tu le leggi del cielo, o puoi tu stabilire il loro dominio sulla terra? Giobbe 38:33. Mi ha sempre fatto riflettere la pioggia, come, quando e perché cade. Possibile che la pioggia, da sempre, riesca ad annacquare la terra al momento opportuno e con la quantità giusta? Il cielo e la terra sono sottoposti a leggi fisiche interdipendenti. Le leggi del cielo stabiliscono il loro dominio sulla terra in modo tale che ancora noi non sappiamo per cui, quando è il momento, per una legge fisica cade la pioggia. E quando ciò non avviene, è l'uomo, con i suoi peccati, che sconvolge l'armonia del creato. Non dicono in cuor loro: temiamo l'Eterno, il nostro Dio, che dà la pioggia a suo tempo, la prima e l'ultima pioggia, che mantiene per noi le settimane fissate per la mietitura. Le vostre iniquità hanno sconvolto queste cose, e i vostri peccati tengono lontano da voi la prosperità. Geremia 5:24-25. Chi sarà in grado di comprenderlo? Il periodo dei segni celesti. Poiché vi sono tre tipi di profezie, cioè quelle che si sono avverate, quelle che si stanno avverando e quelle che devono ancora avverarsi, consideriamo un attimo a quale di queste profezie appartiene il giorno unico di cui parla la Scrittura. Una cosa è certa, non abbiamo notizie che sia avvenuto un giorno simile. È vero che in passato non vi erano le comunicazioni di oggi, ma un avvenimento del genere non sarebbe certamente passato inosservato nella tradizione dei popoli. È sufficiente pensare alla catastrofe del diluvio. Questo fenomeno mondiale fu tramandato di generazione in generazione, tanto che gli uomini ne hanno ricavato leggende e miti che sono vivi ancora oggi. Una ricerca calcola che esistano almeno 500 leggende del diluvio narrate da più di 300 tribù o popoli. E, vero che al tempo di Gesù, in pieno giorno, il sole si è oscurato per 3 ore, e alcuni hanno avanzato delle ipotesi. Chi pensa che questo fenomeno sia dovuto ad una eclissi, non considera che una eclissi non può durare 3 ore. Chi invece sostiene che sia avverata la profezia di Ezechiele che dice «coprirò il sole di nuvole», non considera che tale profezia si riferisce al giorno del Signore, e non mi sembra che la morte di Cristo sia il giorno del Signore nel quale il sole si oscurerà mentre sorge e una luce verrà verso sera. Questo sconvolgimento degli astri viene ripreso da Gesù nel suo sermone profetico e narrato dai 3 evangelisti. Leggiamo i testi. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, Matteo 24:29. Ma in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire nelle nuvole, con grande potenza e gloria. Marco 13:24. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Luca 25:27. In Marco 13:19 leggiamo che quella tribolazione sarà unica e irripetibile. O perché in quei giorni vi sarà una grande tribolazione, la più grande che sia mai venuta dall'inizio della creazione fatta da Dio fino ad oggi, né mai più vi sarà. Ho evidenziato alcune espressioni per mettere in risalto che ciò che succede agli astri si frappone tra 2 avvenimenti conseguenziali unici e irrepetibili nella storia dell'umanità. Prima vi sarà una grande tribolazione. Dopo tutti vedranno il figlio dell'uomo, perciò il ritorno di Cristo per Israele sarà preceduto dalla grande tribolazione. Il metodo del mio studio è quindi di considerare questi avvenimenti celesti come strumenti per determinare il periodo delle altre profezie. Ogni profezia, per forza di cose, dovrà collocarsi o prima o dopo tali eventi astronomici. Leggiamo in Matteo 24:2-9:44, cioè il contesto dove troviamo questi 2 avvenimenti separati dai fenomeni celesti. Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua e chi è nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello. Ma guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non accada d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una tribolazione così grande quale non vi fu mai dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice, ecco, il Cristo è qui, oppure è là, non gli credete. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, ecco è nel deserto, non vi andate, ecco è nelle stanze segrete, non ci credete. Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Poiché dovunque sarà il carname, lì si aduneranno le aquile. Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una estremità dei cieli all'altra. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo. Uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino. Una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Anche in questa lettura non vi è dubbio che gli avvenimenti celesti si collocano tra la grande tribolazione e l'imminente ritorno di Cristo per regnare sul mondo. Però vi sono due altri modi di interpretare il capitolo 24 di Matteo. 1. Alcuni studiosi hanno applicato la profezia di Gerusalemme circondata da eserciti, Luca 21 e 20, all'anno 70 d.C., quando Tito la rase al suolo, e Gesù si era già riferito ad essa quando disse: «In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata», in Matteo 24, 2, Luca 19, 41-44 e 21-20-24. Questa interpretazione non tiene in considerazione quello che si sarebbe dovuto verificare in precedenza. A. L'abominazione della desolazione e quello che sarebbe dovuto avvenire in seguito. B. La grande tribolazione che mai più vi sarà e quindi. C. Il sorgere dei falsi cristi. D. Poi i fenomeni celesti e il ritorno di Cristo per Israele. Ancora una volta constatiamo che i passi profetici hanno riferimenti multipli e facili da confondere. 2. Altri studiosi ritengono questo discorso profetico di Gesù rivolto alla Chiesa, ma i discepoli pongono a Gesù tre domande. 2. Quale segno caratterizzerà la venuta del tuo regno? 3. Quando finirà questo periodo di sottomissione di Israele ad altri popoli? Quando i discepoli posero queste domande, ignoravano che vi sarebbe stato il periodo della Chiesa, perché essi credevano che il regno di Dio si sarebbe manifestato immediatamente, Luca 19 e 11. Anche dopo la resurrezione di Gesù, i discepoli chiesero: «Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele?» Atti 1.6. Come potevano i discepoli porre delle domande inerenti al rapimento della Chiesa se ne ignoravano la nozione stessa? Finché Pietro non aprì la porta della salvezza ai gentili, come potevano i credenti pensare ad una comunità composta di giudei e stranieri, di cui nessuno aveva mai parlato? Per cui quando Gesù disse quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo, il riferimento era diretto al ritorno di Cristo per il popolo di Israele. Teniamo presente gli esempi di Gesù. Egli nomina Lot e Noè che furono salvati dal giudizio immediatamente prima che esso fosse scatenato, e se la Chiesa venisse rapita dopo alcuni anni il paragone non regge. L'ultima settimana di Daniele abbiamo constatato che i grandi segni che si svolgeranno in cielo dividono due altri grandi avvenimenti irripetibili: la grande tribolazione e il ritorno di Cristo per regnare. Dal discorso di Gesù in Matteo capitolo 24, questa grande tribolazione sarà preceduta da un avvenimento anch'esso irripetibile: l'abominazione della desolazione. Quando dunque avrete visto l'abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo santo, chi legge intenda, allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti. Chi si trova sulla terrazza della casa non scenda a prendere qualcosa di casa sua, e chi è nei campi non torni indietro a prendere il suo mantello,

riguardanti Israele, bisogna concludere che 3 anni e mezzo prima della distruzione di Gerusalemme, l'invasore abbia stretto un patto con molti e fatto cessare sacrificio e offerta. Inoltre, come abbiamo già considerato, secondo Matteo 24, 23, 27, in quel periodo sarebbero sorti falsi cristi e falsi profeti. Ma la storia non riporta alcuna notizia a riguardo. Non va dimenticato che l'avverarsi dei fenomeni celesti avviene subito dopo quei giorni, e non prima o durante. Questi fenomeni celesti anticipano immediatamente la venuta di Gesù, perché sta scritto: «E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo, e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria». Matteo 24:30. I cristiani che credono al rapimento della Chiesa e alla seconda venuta di Gesù per Israele non sono tutti d'accordo sul momento del loro verificarsi, perché per alcuni i due avvenimenti sono contemporanei, per altri sono separati da anni. Senza perderci in tante discussioni, vi è una caratteristica basilare che distingue nettamente la venuta di Gesù per la Chiesa da quella per Israele. Quando Gesù verrà per la Chiesa, nessuno lo vedrà, ma i salvati saranno rapiti e incontreranno il Signore nell'aria. 1 Tessalonicesi 4:17. Mentre quando verrà per Israele apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Matteo 24:30. I due avvenimenti quindi sono diversi e non contemporanei. Non avendo Gesù rapito la Chiesa e non essendo ancora stato visto venire sulle nuvole del cielo, la conclusione più ovvia è che l'ultima settimana di Daniele deve ancora avverarsi. Rimane quindi una settimana profetica da adempiersi per Israele. Avvenimenti nell'ultima settimana di Daniele. Gli ultimi 7 anni di Daniele e i 3 anni e mezzo della grande tribolazione ci richiamano alla mente inevitabilmente tutte le altre date nella Scrittura che si riferiscono a dei periodi di tempo ben definiti. Il primo problema che si pongono gli studiosi è di sapere se questi periodi siano reali o simbolici. E qui sorge la necessità ancora una volta di mettere in pratica uno dei fondamentali principi ermeneutici della Scrittura, interpretare la Scrittura con la Scrittura, cioè determinare come la Bibbia considera la durata degli avvenimenti. 1. Genesi 15 e 13. L'Eterno annunzia ad Abramo che i suoi discendenti avrebbero dimorato in un paese straniero oppressi per 400 anni. La conferma si trova in Esodo 12. 40-41. 2. Genesi 41. L'Eterno rivela a Giuseppe che vi sarebbero stati 7 anni di abbondanza e 7 di carestia. Questo si avverò alla lettera. 3. Numeri 14. 33-34. L'Eterno condanna il popolo a vagare nel deserto per 40 anni. E così fu. 4. Isaia 38. 5. L'Eterno allunga la vita ad Ezechia di 15 anni. Ezechia regnò in tutto 29 anni, 2 re. 18. 2. Si ammalò della malattia che avrebbe dovuto condurlo a morte al 14° anno del suo regno. 2 re 18 e 13 e 21. 5. Geremia 25, 11, 12. L'Eterno profetizza che Israele avrebbe servito Babilonia per 70 anni. E questo avvenne dal 606 al 536 avanti Cristo. 6. Daniele 9 e 24. L'Eterno ha fissato per il popolo di Israele 490 anni, cioè 70 settimane, divise in 7 più 62 più 1. Gli studiosi, prendendo alla lettera tale cifra, hanno dimostrato l'esattezza del periodo, anche se con conclusioni diverse. 7. Matteo 24:40. Gesù disse che sarebbe stato sepolto per 3 giorni e 3 notti. Ciò si adempì alla lettera. Per brevità possiamo solo dire che Gesù morì il mercoledì alle ore 3 del pomeriggio. Questi sono solo alcuni degli avvenimenti che si sono potuti verificare, ma nelle Scritture troviamo numerose profezie che riportano limiti temporali. 8. Quando Dio determinò di mandare il diluvio dopo 120 anni dalla sua decisione, Genesi 6:3, Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Genesi 6:8. Se Noè aveva 500 anni quando generò i figli e 600 quando venne il diluvio, ciò significa che Dio determinò il diluvio 20 anni prima dalla nascita dei figli di Noè. Se poi qualcuno non prende alla lettera certe date, avrà enormi difficoltà a interpretare la Bibbia e le date precise in essa, riportate quale? Il 600° anno della vita di Noè, il secondo mese, il 17° giorno del mese, il quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Genesi 7:11. Il profeta parla di 65 anni. 9. Isaia 7:8. Il profeta parla di 3 anni, contati come quelli di un operaio. 10. Isaia 16:14. Il profeta parla di un anno, contato come quello di un operaio. 11. Isaia 21:16. 12. Isaia 32:10. Isaia profetizza un tempo di un anno e qualche giorno. 13. Ezechiele 4:1-6. Il profeta Ezechiele porta l'iniquità della casa di Israele per 430 giorni. Ogni giorno equivaleva ad un anno per il suo popolo, come nel caso della profezia di Daniele. 14. Ezechiele 29:12. Una profezia riguardante l'Egitto ha la durata di 40 anni. Notiamo ora che le profezie citate di seguito hanno in comune un periodo di tempo in comune. 15. Apocalisse 11. 2. Gerusalemme sarà calpestata per 42 mesi dalle nazioni, dopo verranno giudicate. Gioele 3:1-3. Zaccaria 12:2. 16. Apocalisse 11. 3. I due testimoni, Enoch e Elia, gli unici esseri umani ancora vivi che sono davanti a Dio. Zaccaria 4:3-11. Profetizzeranno per 1260 giorni, poi verranno uccisi a Gerusalemme e dopo 3 giorni e mezzo risusciteranno. 17. Apocalisse 12. 6. La donna Israele della quale si parla in questo capitolo è nutrita per 1260 giorni. Da notare che questo tipo di linguaggio era presente nei profeti. Michea 5:2-3. 18. Apocalisse mezzogiorno e 14. La donna verrà nutrita un tempo, dei tempi la metà di un tempo. 19. Apocalisse 13. 5. La bestia ha il potere di agire per 42 mesi. 20. Daniele 12. 7. L'angoscia per Israele sarà di un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. 21. Daniele 7:25. I santi saranno perseguitati un tempo, dei tempi la metà. 22. Daniele mezzogiorno 11. Dall'abolizione del sacrificio quotidiano all'abominazione della desolazione trascorreranno 1290 giorni. 23. Daniele mezzogiorno 12 e beato chi aspetta 1335 giorni. 24. Apocalisse 23. Satana è gettato nell'abisso per 1000 anni. 25. Apocalisse 26. I redenti, la Chiesa, regneranno con Cristo 1000 anni. Dopo questi esempi, l'unica conclusione possibile è che i periodi di anni citati nelle Scritture siano alcuni di essi non riguardano il nostro studio, ma i periodi di tempo citati nel libro dell'Apocalisse e in Daniele hanno qualcosa da dirci. Se per un attimo mettiamo da parte i due testi dell'Apocalisse che si riferiscono ai 1000 anni, notiamo che i vari periodi di tempo descritti nei punti 15-21 sono di ugual durata. Infatti, periodi come un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, 1260 giorni, 42 mesi, si riferiscono tutti a 3 anni e mezzo. Per chi è digiuno di profezie, ricordiamo che per i giudei gli anni profetici sono di 360 giorni. Prima di andare avanti con le nostre riflessioni, dobbiamo rileggere Daniele 9:27. Egli, l'invasore, stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione, che è decretata, sarà riversata sul devastatore. Daniele specifica che l'invasore contrarrà un patto per 7 anni, ma che dopo 3 anni e mezzo romperà questo patto, e negli ultimi 3 anni e mezzo commetterà l'abominazione della desolazione, posta in luogo santo, come l'ha definita Gesù. Ci si chiede se i periodi dei 3 anni e mezzo citati in Apocalisse siano all'inizio o alla fine della settimana, ma se i due testimoni, dopo aver profetizzato per 1260 giorni, saranno uccisi dalla bestia, questo è probabile solo nel periodo nel quale la bestia si trova a regnare durante gli ultimi 3. Infatti, durante il suo regno, essa farà guerra ai santi. E li vincerà, Apocalisse 13:7. Daniele specifica che dal momento che verrà abolito il sacrificio quotidiano ed eretta, l'abominazione della desolazione passeranno 1290 giorni. Difficile spiegare il mese in più che ne deriva rispetto ai 3 anni e mezzo, e ancora più difficile spiegare a cosa sono relativi i 1335 giorni. Ma quando la parola di Dio specifica dei periodi di tempo è perché sono importanti, e perciò non è sbagliato cercare di capire ciò che Dio vuole comunicare, senza voler fare l'errore di coloro che puntualmente fissano date per il ritorno di Cristo, mi chiedo se fosse possibile intravedere nei 1290 giorni il momento del rapimento della Chiesa, mentre nei 1335 giorni il momento del ritorno di Cristo per Israele per regnare. Infatti è scritto che è beato chi aspetta e giunge al 1335esimo giorno. Perché beato, cioè felice, se in quel periodo vi è solo una grande tribolazione, a meno che queste date non si riferiscono a momenti di grande gioia? E quale gioia più grande può esservi se non il rapimento della Chiesa e il ritorno di Cristo per Israele? Sono riflessioni che non stravolgono nulla nel campo profetico come noi lo stiamo considerando e che dobbiamo tenere nel nostro cuore senza insistere più di tanto, perché al momento opportuno i credenti capiranno le due date. Però colento sita canto ti nostro non è terapi capirare settima impure pide il momento papolo cas rapirare settima ira secomendo. Se questo momento per capire fosse già quello che stiamo vivendo, nel periodo dei 3 anni e mezzo vi sarà un disorientamento spirituale generale, perché sorgeranno falsi messia. Gerusalemme sarà presa, i suoi abitanti cercheranno di fuggire dalla città. Con grande difficoltà, soprattutto le donne incinte e quelle che allatteranno, 2/3 degli ebrei saranno uccisi. La città sarà occupata per 42 mesi. Il rimanente di Israele riuscirà a nascondersi per 3 anni e mezzo. In questo periodo, l'uomo del peccato, l'avversario, l'empio, si autodefinirà Dio, imponendo di essere adorato come tale. 2 Tessalonicesi 2:3-4. Ma severi giudizi saranno scagliati da Dio, e per questo quel periodo sarà chiamato Gran Tribolazione. Ed ecco che, subito dopo la tribolazione di quei giorni, si manifesteranno in cielo quei segni di cui abbiamo parlato. Rileggiamo come li descrive Zaccaria nel capitolo 14. In quel giorno arderà che non vi sarà più luce. Gli astri luminosi si oscureranno. Sarà un giorno unico che è conosciuto dall'Eterno. Non sarà né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. Zaccaria 14:6-7. Quale giorno può essere unico se non il ritorno di Cristo per regnare sulla terra? E come mai verso sera, e cioè al momento del sacrificio, in un buio pesto dove gli astri non daranno il loro splendore? Ci sarà luce, e Gesù che tornerà per regnare, preceduto da un grande luce, perché Lui è la luce. Vi sarà un forte cataclisma consistente in un tremendo terremoto, e in quel giorno i suoi ave piedi si fermeranno sopra il Monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il Monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando così una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra metà verso sud. Zaccaria 14:4. Da questo monte uscirà un fiume che purificherà le acque del mare, i cui pesci saranno tutti morti, Osea 4:3, e nel terzo millennio, non si fa fatica a crederlo, si avvereranno così tutte quelle profezie riguardanti il regno millenario di Cristo, che, per non dilungarci, non trattiamo, ma che possono essere riassunte dal passo di Zaccaria 14:9. L'Eterno, Cristo, sarà re su tutta la terra. In quel giorno ci sarà soltanto l'Eterno e soltanto il suo nome. Solo quando Gesù Cristo sarà re di tutta la terra, Zaccaria 14:9, le 7 promesse di Dio si adempiranno, cesserà la perversità, sarà messo fine al peccato, sarà espiata l'iniquità, sarà stabilita una giustizia eterna, sarà sigillata visione e profezia e sarà unto un luogo santissimo. Daniele 9:24. Inizierà allora il millennio, profezia questa sempre presente nei profeti, Michea 5.49, 4.6.13, e che può essere ravvisata nell'espressione in quel giorno. Al computer l'espressione in quel giorno. Isa 2.11, 17 Cristo Gesù sarà esaltato. Isa 2.2, 021, gli uomini si nasconderanno dall'arrivo di Cristo. Isa 3.7, gli israeliti saranno importanti. Isa 3.18, tutti saranno umiliati. Isa 4.1, la vita sociale cambierà. Isa 4.2, Cristo regnerà con onore e gloria. Isa 5.30, tuali popoli andranno contro Gerusalemme. Isa 7.18, risarà una invasione di mosche e api, forse per i cadaveri. 20, 23, 10 e 20, 27, 11 e 10 F, 12, 1, 4, 17, 4, 7, 9, 19, 16, 18, 21, 23, 26, 22, 8, 12, 20, 25, 23, 15, mezzanotte 21. 25, 9, 26, 1, 27, 1 F, 12, 28, 5, 29, 18, 30, 23, 31, 7. 4, 9, 25, 33, 30, 8, 39, 1, 6, F, 48, 41, 49, 22, 26, 50, 30, Ezek, 2, 0, 6, mezzanotte, 26, F, 29, 21, 39, 38, 10, 14, 18, 39, 11, 45, 2, 2, Hos. 1, 5, 2, 16, 18, 21, Joel. 3 e 18, Amos 2, 16, 8, 3, 9, 13, 9 e 11, Obad. 1, 8, Mic. 2, 4, 4, 6, 5 e 10, 7 e 11, F, Zef. 1 e 10, 3 e 11, 16, Hag. 2 e 23, Zek. 2 e 11, 3 e 10, 9 e 16, 12, 3 F, 6, 8, 11, 13, 1 F, 4, 14, 4, 6, 8, 13, 20, Mat, 7 e 22, LK. 6 e 23. 10 e 12, 17 e 31, 23 e 12, JN, 14 e 20, 16 e 23, 26, ACTS, 2 e 41, 2 TES, 1 e 10, 2 TIM, 1 e 18, 4, 8, 2 PET, 3 e 10, 1. Le profezie si studiano per essere più santi? 2. Solo il Dio Trino dei cristiani conosce il futuro. 3. I cristiani parlano del futuro perché credono nella parola di Dio rivelata. 4. Dio rivela anticipatamente ai profeti ciò che fa come è stato per Abramo, per Mosè, Isaia, Geremia e Daniele. 5. A Isaia l'Eterno ha rivelato che il popolo babilonese avrebbe deportato gli ebrei lontano dalla loro terra e che Ciro avrebbe riportato gli esuli. Isaia 44.28-45.1.13. 6. Geremia profetizza i 70 anni di deportazione, cap 25, e il suo ritorno, capitolo 29. 7. Daniele profetizza il dominio di 4 regni su Israele, capitolo 2, babilonesi, persiani, greci romani. 8. Daniele profetizza nel 536, 70 settimane, 490, e poi sarebbe iniziato un periodo. 9. Le 70 settimane, 490, divise in tre periodi. 7 settimane, 49 anni, il periodo occorso per la ricostruzione di Gerusalemme. 62 settimane, 434 anni, un unto sarà soppresso, cioè Gesù. A questo punto sono una settimana, 7 anni. l'anticristo stabilirà un patto che annullerà a metà settimana. E la domanda da porsi è: con la morte di Gesù sono passati 490 anni oppure deve ancora avverarsi una settimana, cioè 7 anni? Gesù ha parlato dell'abominazione e della desolazione come qualcosa da avverarsi, Matteo 24.25, e dopo 7 anni non è iniziato un periodo nuovo e stupendo per Israele. Anzi, nel 70 d.C. il romano Tito rade al suolo Gerusalemme. 10. Gli avvenimenti celesti, per forza di cose, hanno un ordine cronologico. 11. Vi saranno fenomeni celesti irrepetibili dopo l'abominazione della desolazione. 12. L'abominazione della desolazione avverrà negli ultimi 3 anni e mezzo dell'ultima settimana di Daniele 13. Secondo Gesù, l'ultima settimana di Daniele deve ancora avverarsi 14. Durante i 3 anni e mezzo, la grande tribolazione, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili. I due testimoni profetizzeranno, l'anticristo avrà massimi poteri, Israele sarà nella più profonda angoscia, i credenti saranno perseguitati in modo particolare. 15. Dall'abominazione delle desolazioni passeranno 1290, poi avverrà qualcosa di importante che è possibile collocarlo al rapimento della Chiesa. 16. Dall'abominazione delle desolazioni passeranno 1335 giorni e chi sarà presente sarà felice, e questo può riferirsi al ritorno di Cristo per Israele. Il rapimento della Chiesa. Alcuni studiosi hanno fatto notare che vi sono 5 parole greche che vengono usate in riferimento alla manifestazione di Cristo. Parusia. 1. Giacomo 5.7. 2. 2 Tessalonicesi 1.7 Apocalipsis. 3. 1. Timoteo 6.1. 4. Epifaneisa. 4. Luca 19.13. Ercomai. 5. Apocalisse 2.25. Ecco. La presenza personale di uno che arriva. Apparizione, rivelazione. Manifestazione, gloria. L'atto dell'arrivare da un posto ad un altro. L'arrivo. Abbiamo considerato come i discepoli aspettassero il ritorno di Cristo per regnare su Israele e su tutto il mondo. Il rapimento della Chiesa costituiva per loro un messaggio del tutto sconosciuto. Questo evento sarà rivelato particolarmente per mezzo dell'Apostolo Paolo. Nel Nuovo Patto troviamo solo 3 descrizioni precise ed inequivocabili al rapimento della Chiesa. Chi desidera non andare oltre ciò che è scritto deve attenersi scrupolosamente a questi 3 brani della Scrittura. Consideriamo il rapimento della Chiesa sotto 3 aspetti. 1. Quale mistero? 2. Quale annunzio? 3. Degli avvenimenti che lo precedono. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità. Il senso comune della parola mistero si riferisce a tutto ciò che non si può intendere, penetrare e spiegare chiaramente, ma questo termine nella parola di Dio ha il significato di una verità soprannaturale che non può essere conosciuta mediante l'intelligenza umana e che, una volta conosciuta per rivelazione, può essere compresa dalla mente umana. Possiamo quindi dare un significato alla parola mistero, una verità soprannaturale comunicata all'uomo per mezzo della rivelazione divina e proposta per venire creduta come oggetto di fede. In questo brano Paolo specifica che non tutti gli uomini moriranno. Cosa assai assurda per un incredulo, perché alcuni figli di Dio saranno trasformati in un istante, mettendo in rilievo che il rapimento della Chiesa sarà istantaneo. Il tutti saremo mutati è riferito a quelli che saranno vivi al momento del loro rapimento. B. Il rapimento è annunziato. L'errore che si commette nel leggere ciò che ha scritto l'Apostolo Paolo in riferimento al rapimento della Chiesa è che si leggono solo i versetti da 13 a 18 del capitolo 4, ma anche il più ignorante di Scritture comprende subito che il discorso di Paolo in merito al rapimento dei credenti si protrae fino al capitolo 5 e al versetto 11. Così occorre leggere da 4.13 fino a 5.11. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con lui quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con quanto poi ai tempi e ai momenti. Fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. E non scamperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Perché voi ti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. Ma noi, che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Balza subito all'occhio che Paolo, riferendosi al rapimento della Chiesa, lo chiama giorno del Signore. Un giorno del quale Paolo ritiene inopportuno entrare nei particolari perché tutti sapevano che arrivava all'improvviso. Paolo ricorda che il rapimento della Chiesa sarà accompagnato da alcuni segni precisi. Meno vi è un ordine, meno vi è la voce d'arcangelo, meno vi sarà il suono della tromba di Dio. Gesù scenderà dal cielo. Meno i risorti incontreranno Gesù nell'aria. Notiamo che i segni di cui parla la scrittura relativi al rapimento della Chiesa per l'umanità sono solo acustici e non vengono accennati segni visivi. Non vi è nessun accenno al periodo in cui viene rapita la Chiesa, per cui ogni ipotesi per ora può essere accolta. C'è chi ritiene il rapimento della Chiesa prima dei 7 anni di Daniele, chi durante i primi 3 anni e mezzo, chi durante gli ultimi 3 anni e mezzo e chi dopo ancora. Ogni teoria è suffragata da versetti biblici. Coloro che credono che il rapimento avvenga prima dei 7 anni o della gran tribolazione trovano supporto nei versetti biblici dove vi è la promessa che i credenti saranno risparmiati dalle sofferenze. Apocalisse 3 e 10 13. Ecco alcuni esempi. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, cosa avverrà dell'empio e del peccatore? 1 Pietro 4, 17-18. Tale affermazione di Pietro è semplice. Prima saranno giudicati i credenti, poi gli empi. Nessun riferimento al rapimento. Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Apocalisse 3:10. Questa promessa di Gesù si riferisce all'ora della prova o tentazione, che non ha una collocazione precisa, e può essere riferita a qualsiasi cosa. Del resto la promessa non è riferita all'evitare l'ora della prova, ma di essere custoditi, cioè conservati, il che vuol dire che i credenti ci saranno. Inoltre, non mi sembra che la settimana di Daniele sia l'ora della prova. Il rapimento è preceduto da alcuni avvenimenti. I Tessalonicesi amavano conoscere quando Gesù sarebbe tornato e, presi da un insano desiderio, Alcuni molto probabilmente aspettavano il ritorno di Cristo imminente al punto di non lavorare, perché tanto ormai veniva rapito. 3.6.12. Inoltre mi è sempre sembrato molto strano che Paolo non abbia avuto occasione di affrontare in modo preciso un argomento tanto importante come il rapimento della Chiesa e proprio per una Leggiamo il brano in 2 Tessalonicesi 2, 1.12. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro radunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Fosse imminente, fosse già presente, nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Non vi ricordate che, quando ero ancora tra voi, vi dicevo queste cose, e ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'impietà infatti è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. Allora sarà manifestato quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà l'apparire della sua venuta. La venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro efficacia di errore, perché credano alla menzogna affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità. La comprensione del brano dipende dalla interpretazione che diamo alle prime parole. Se la venuta del Signor nostro Gesù Cristo e il nostro radunamento, incontro, riunione con Lui sono riferiti allo stesso avvenimento, cioè al rapimento della Chiesa, ma non vi sono dubbi che gli avvenimenti descritti da Paolo precedono il rapimento della Chiesa. Se invece sono due episodi diversi, rapimento della Chiesa e ritorno di Cristo per Israele, occorre sapere a quale di questi due avvenimenti si riferisce Paolo. Poiché l'Apostolo Paolo non si preoccupa di spiegare se si riferisce solo al rapimento della Chiesa, se si tratta di due avvenimenti separati dal tempo o facenti parte di un unico episodio, cosa strana trattandosi di un chiarimento, poiché in seguito si riferisce al giorno del Signore, come scrisse nella sua prima lettera, è da ritenere che Paolo cerchi di spiegare che cosa precede il giorno del Signore. In 1 Tessalonicesi 4, 13 a 5 e 6, senza tenere conto dell'interruzione del capitolo, noi abbiamo compreso che Paolo non fa distinzione tra il ritorno di Cristo e il giorno del Signore. L'Apostolo sta invitando i credenti ad essere preparati per il giorno del Signore, perché essere preparati per quel giorno equivale ad essere pronti al rapimento della Chiesa. Questi due avvenimenti separati saranno preceduti da altri nel seguente ordine. A. Verrà tolto ciò che impedisce la manifestazione dell'Anticristo. B. Verrà l'apostasia. C. Si manifesterà l'Anticristo. Quindi, se l'Anticristo non si manifesta, è perché C. è chi ora lo trattiene. Molto si è detto su questa affermazione di Paolo, ma non può riferirsi né alla Chiesa né allo Spirito Santo, perché gli avvenimenti citati precederanno il rapimento della Chiesa. Comunque sia, non è saggio stabilire delle certezze su affermazioni dubbie. Sono le sette che approfittano dei versetti oscuri. L'ipotesi più verosimile è che si tratti dell'impero romano, come del resto ha detto il profeta Daniele, il popolo di un capo. 8.26. È vero che l'impero romano non capo, è più, ma il ruolo di Roma è ancora operante. Dopo la sparizione di questo impero, ci sarà l'abominazione della desolazione. Saremo quindi negli ultimi 3 anni e mezzo dell'ultima settimana di Daniele. Se prima del nostro incontro con Gesù Cristo ci sarà l'abominazione della desolazione, E se in Daniele sta scritto che dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni, ciò significa che chi avrà passato il periodo della grande tribolazione saprà di essere prossimo al rapimento. Dopo il rapimento della Chiesa vi è l'altra promessa. Beato chi aspetta e giunge a 1335 giorni. Dopodiché Israele finalmente vedrà il suo liberatore re. Quattro elementi utili per determinare il momento del rapimento. In seno al movimento delle Chiese dei Fratelli, vi è una interpretazione ben riassunta sul commentario Investigate le Scritture, di La Casa della Bibbia, edizione 2001 a pagina 1383. Oppure, nel libretto di Samuele Negri, Note sulla Dottrina di Dio, edito Movimento Biblico Giovanile da Pag. 62 in poi. Vi sono però, a mio avviso, tre elementi che possono essere determinanti per il nostro studio. 1. Nel discorso profetico, Gesù cita un rapimento che non deve sfuggirci, Matteo 24, 36-44. Quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li conosce neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si avvidero di nulla. Finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora, due saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Anche per questo rapimento sono state fornite varie interpretazioni, una delle quali i rapirti saranno i perduti, ma mi sembra di poter affermare che la Bibbia citi un solo rapimento di massa, quello della Chiesa. Se valutiamo il momento nel quale avviene questo rapimento, noteremo che si verifica durante il ritorno di Cristo per Israele. E questo concorderebbe con quanto abbiamo considerato. Cristo scenderà dal cielo per regnare sulla terra e su Israele. Incontrerà la Chiesa sulle nuvole. Cristo prosegue la sua discesa sulla terra con la Chiesa per regnare. Zaccaria 14.5. 2. Sempre in Matteo 24, Gesù paragona il suo ritorno per Israele agli episodi avvenuti a Lot e Noè. Molte volte vengono citati gli esempi di Lot e Noè per dimostrare che la Chiesa verrà rapita prima dei 7 anni. Da una lettura anche superficiale noteremo che sia Lot che Noè vengono salvati immediatamente prima del giudizio di Dio e non dopo tanti anni. Il libro della Genesi, dove questi avvenimenti sono narrati, ci informa che non trascorre un periodo più o meno lungo prima del giudizio di Dio. Infatti Luca scrive in 17.2.4.36: «Perché com è il lampo che balenando risplende da una estremità all'altra del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che egli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figlio della uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot. Si mangiava, si beveva, si comprava, si rendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle, così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno assieme, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi. L'uno sarà preso e l'altro lasciato. Se ciò che Gesù ha detto corrisponde alla realtà anche nei particolari, significa che la Chiesa verrà rapita nei giorni del suo ritorno. 3. Gesù dà per scontato che i credenti assisteranno agli avvenimenti dell'ultima settimana di Daniele. Luca 21 e 31, Matteo mezzanotte e un quarto e 33. O così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. O quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione. O così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. È evidente che Gesù non si stava riferendo ai suoi ascoltatori. Se egli si riferisce alla Chiesa, allora essa non è stata rapita prima della grande tribolazione. Se invece il riferimento è ai giudei, ciò è in armonia con quanto abbiamo esaminato e non possiamo leggere il capitolo 24 di Matteo e trovarvi riferimenti alla Chiesa. Però, se la Chiesa viene rapita nel momento in cui Gesù ritorna per Israele, le interpretazioni dei credenti trovano un punto d'accordo, perché le profezie riguardanti la situazione di Israele prima del ritorno di Cristo sono punti di riferimento anche per la Chiesa. Quando Paolo affermò che la Chiesa andrà a incontrare il Signore nell'aria, è sottinteso che Gesù si sarà già messo in cammino. Perché Gesù scenderà dal cielo? Solo per rapire la Chiesa oppure per venire a regnare sulla terra? Il messaggio dei profeti non è forse riferito al ritorno di Cristo per essere re su tutta la terra? Se la Chiesa viene rapita 7 anni o 3 anni e mezzo, prima del suo ritorno per Israele, dove andranno Gesù e la Chiesa con lui? Gesù tornerà in cielo? Oppure rimarrà in aria per degli anni? Nel momento stabilito, Gesù tornerà sulla terra per regnare 1000 anni. E durante questo viaggio incontrerà la sua sposa e con essa procederà verso la terra. Così, Yahvé, cioè Gesù, il mio Dio verrà, e tutti i suoi santi saranno con te, Zaccaria 14, 5. Solo allora si realizzeranno certe profezie. O beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni, Apocalisse 26. Chi ha creduto in Cristo e sarà stato vittorioso regnerà sulla terra per 1000 anni con Cristo. O egli disse, bene, servo buono, poiché sei stato fedele in cosa minima, ricevi il governo su 10 città, Luca 19 e 17. Al credente vittorioso sarà dato di governare delle città. O C. È qualcuno di voi che, quando ha una questione contro un altro, osa farlo giudicare dagli ingiusti invece che dai santi? Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? 1 Corinzi 6, 1-3. Coloro che avranno creduto in Cristo giudicheranno gli angeli ribelli. 4. Anche il regno millenniale di Cristo porta a concludere che la Chiesa venga rapita dopo i 7 anni di Daniele. Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare, e vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Apocalisse 20, 1-8. I troni stabiliti da Dio sono anche per coloro che muoiono da martiri durante il regno della bestia, cioè dell'Anticristo. Si potrebbe pensare che non siano coloro che fanno parte della Chiesa, ma è fuori discussione che a regnare sono solo coloro che fanno parte della Chiesa, non altri. Inoltre, alla prima resurrezione fanno parte solo quelli che sono della Chiesa, altrimenti vi sono due resurrezioni. A proposito del ritorno di Cristo per la Chiesa, vorrei esprimere un'opinione che può benissimo non essere tenuta in considerazione. Per molti cristiani il rapimento della Chiesa sarà un evento notato in tutto il mondo e che porterà milioni di persone alla conversione. Questa opinione è stata non solo condivisa ma anche strumentalizzata da molti scrittori, considerando come Dio opera di consueto. Dubito fortemente di tutto questo. Se ci è stato un evento straordinario, questo è stato l'incarnazione e la morte del Figlio di Dio sulla terra. Eppure, quando Gesù è nato, tutto è avvenuto in un contesto talmente naturale che gli uomini non l'hanno notato, come pure la sua morte è avvenuta tra due malfattori. Quando Gesù tornerà, gli eventi astronomici e storici saranno incontrollabili e caotici, per cui nasconderanno il grande evento. Come sarà possibile? Mi chiederete. Francamente non lo so, anche se nell'Antico Patto possiamo trovare elementi utili. Però posso formulare un'ipotesi che non trovo del tutto assurda. Il mondo si sta preparando psicologicamente ad incontrare creature di altri pianeti. I film, l'opinione pubblica, gli scienziati sono veicoli mediante i quali viene inoculato nella mente delle persone che prima o poi noi terrestri avremo degli incontri ravvicinati con degli extraterrestri. Quando Gesù rapirà la Chiesa e tornerà con essa, non sorprenderà dunque nessuno, perché l'umanità sarà matura per un avvento straordinario dei cieli, anche se in un'ottica completamente diversa. Gesù non sarà ricevuto come il Figlio di Dio, ma come un extraterrestre. Sarà quindi ovvio che lui regni con i suoi seguaci sul mondo per risolvere i formidabili problemi nei quali il mondo si sarà cacciato. Ancora una volta la gloria di Dio sarà velata dagli eventi naturali. Per quanto posso comprendere, a meno che gli eventi storici non accelerino precipitosamente, non sarà tanto presto. Ma per me poco cambia, perché in questa terra Gesù è con me. Quando verrò rapito, sarò con Gesù. Dopo queste riflessioni, rileggere il discorso profetico di Gesù è veramente illuminante. Ora, interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro e disse: «Il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché, ecco, il regno di Dio è dentro di voi». Poi disse ai suoi discepoli: «Verranno i giorni in cui desidererete vedere uno dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo qui, o eccolo là, non vi andate e non li seguite. Perché come il lampo che, guizzando da una estremità all'altra del cielo, illumina ogni cosa, così sarà anche il Figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molte cose e sia rigettato da questa generazione. E, come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del Figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi si troverà sul tetto della casa non scende in casa a prendere le sue cose. Così pure chi si troverà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot: chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la salverà. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno insieme. L'una sarà presa e l'altra lasciata. Due uomini saranno nei campi, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. I discepoli allora rispondendo gli dissero: «Dove, Signore?» Ed egli disse loro: «Dove sarà il corpo, là si raduneranno le aquile». Luca 17:20-37. Come per il rapimento della Chiesa, il ritorno di Gesù per regnare sarà inaspettato. Mentre tutti saranno presi dalle normali faccende della vita, Gesù si manifesterà. Versetto 30. In quel momento del suo ritorno verrà il rapimento della Chiesa, l'uno preso, l'altro lasciato. CONCLUSIONE. Quanto ho considerato fa parte di una delle tante interpretazioni, ma questa conclusione contiene aspetti positivi rispetto ad altre. A. Prepara i credenti alla sofferenza. Daniele 7:15-27, Apocalisse 13:5. O egli proferirà parole contro l'Altissimo, perseguiterà i santi dell'Altissimo con l'intento di sterminarli, e penserà di mutare i tempi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. O, e le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. La profezia di Daniele è indiscutibilmente riferita all'ultima settimana del popolo di Israele. La profezia di Giovanni e quella di Daniele sono sorprendentemente simili. Tutte e due narrano che sorgerà un uomo che parlerà contro Dio e avrà potere sui santi per 3 anni e mezzo o 42 mesi. È evidente che il termine santi può essere applicato a chiunque crede, perciò da ciò che abbiamo considerato si può riferire sia ai giudei sia alla Chiesa. Se i credenti in Cristo aspettano il ritorno di Cristo, dopo i 7 anni di tribolazione sono psicologicamente preparati a soffrire, il che non è poco. Mentre coloro che aspettano il rapimento della Chiesa prima dei 7 anni di Daniele o a metà, se Gesù ritorna dopo rimarranno profondamente delusi, scoraggiati, e non potranno glorificare Dio nella sofferenza. Inoltre, questi credenti non capiranno ciò che sta succedendo sotto i loro occhi. Come i farisei al tempo di Gesù. Vedevano Gesù in carne ed ossa, ma non lo riconoscevano come il Messia, perché erano convinti che sarebbe arrivato in un'altra maniera. B. Sorprende positivamente i cristiani. Ripetiamo, se i credenti aspettano il ritorno di Cristo prima della grande tribolazione, e questo non avviene, saranno impreparati e delusi. Come per i contemporanei di Gesù, esso è nascosto agli occhi loro. Luca 19:42. Se invece i credenti aspettano Cristo alla fine dei 7 anni ed egli ritorna prima, essi saranno felici di essersi sbagliati. Se invece i credenti aspettano Gesù al momento giusto, saranno preparati e non saranno sorpresi come la visita di un ladro. Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. 1 Tessalonicesi 5:1-5. Vi è un solo modo per essere preparati: studiare le scritture. Daniele è stato certamente uno dei profeti più intelligenti e illuminati, ma egli capì che i 70 anni profetizzati da Geremia erano finiti, perché aveva meditato sui libri. Daniele 9:2. Come possiamo pretendere che Dio ci parli se non conosciamo quello che Egli ha rivelato ai Suoi profeti? C. I cristiani sapranno quando Gesù ritorna. Se Cristo ritorna alla fine dei 7 anni, i cristiani avranno occasione di vedere i seguenti segni. 1. La diffusione delle guerre. 2. L'intensificazione dei terremoti. 3. La persecuzione contro i cristiani. 4. Il progresso nell'evangelizzazione mondiale. 5. Il ritorno dei giudei in Palestina. 6. L'apostasia, Luca 18:8, 2 Tessalonicesi 2:3. 7. Il sorgere di molti profeti che affermerà. 8. Una dittatura mondiale, Apocalisse 13:17. 9. Una confusione religiosa a livello mondiale, Apocalisse 13:13-14. Tutto questo in parte sta già succedendo, ma vi sono altri segni da attendere. 10. Il patto di un giudeo con gli ebrei di 7 anni. Daniele 9:27. 11. Il regno dell'Anticristo, per cui resteranno 42 mesi per il ritorno di Cristo. Apocalisse 13, 5. 12. Il Tempio di Gerusalemme ricostruito e il ripristino del sacrifico. 2 Tessalonicesi 2, 4. 13. I due profeti, Enoch e Elia, profetizzare per 42 mesi. Apocalisse 11, 3. 14. Potranno contare 42 mesi dal momento che vedranno Gerusalemme occupata totalmente dai non ebrei. Apocalisse 11, 2. Ancora oggi nel 2007 non è così. 15. Con gli strumenti moderni gli uomini saranno in grado di prevedere eventi celesti catastrofici e saranno terrorizzati. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Luca 21, 25, 26. Dopodiché, i cristiani sapranno ormai che il ritorno di Cristo è vicino. Non sapranno il giorno e l'ora, ma rapimento è imminente. I cristiani convinti che Gesù ritorni prima dell'ultima settimana di Daniele per rapire la Chiesa, quando vedranno i segni riportati nei punti da 10 a 15, diano la mano ai fratelli che la pensano diversamente e, assieme, con amore e umiltà, attendano il glorioso ritorno di Cristo. Questo è uno scopo non indifferente per studiare correttamente le profezie, perché Dio ha rivelato il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Non antala 2000